che è avanti. Ciao Daniele, tu sei? Buona Marcolì, buona, già sono io. Anche tu provando, un attimo fa ho controllato le stazionarie ad antenna bagnata. Ma niente di che, cioè passano da 1 sta a 1, perché questo è il canale massimo di accordo, sul 12 sarebbe, no? A 1 e 1, proprio quando è bagnata, tutto lì. Vabbè, come va? Buono. Mi provando questo microfono, com'è Marco? Allora, io non lo sento nemmeno troppo malvagio. Qual è l'80? MC80, se mi sembra di aver capito in questi giorni. Allora, ti spiego, questo baracchino, avendo la ricezione più acuta, non è poi malaccio come modulazione, capito Daniele? Ehi, 80. No, non è l'80 questo, no. Scendi di 20. Ah, il 60 stai usando. Avevo capito che ci avevano 80 per il poco che ho ascoltato e che non era un granché, ma non saprei, io poi non ho l'orecchio clinico, capito Daniele? Provalo un po', fammi un passaggio. Oh, devi considerare che è freddo e ancora. Come si dice? Sì, c'ho l'80, questo è fresco di giornata, diciamo. Però la radio è fredda ancora, eh? Sì, quella un po' va fatta scaldare. Ma anche questa in realtà. Poi mi sono accorto che sono un po' spostato in trasmissione in AM, anzi abbastanza spostato. Sono, adesso te lo dico. Se il frequenzimetro non mente, è freddo anche questo apparato, sono a 27.075.8 ed è un bel, 800 Hz sono un bel. Poi quando si scalda ben bene arriva a 0,75.6 e comunque sono sempre 600 Hz che è spostato in trasmissione. Vabbè, pazienza, in AM non si nota. No, guarda, mi sono messo anch'io poco fa a 08 e ti ascoltavo perfettamente, da 0,75 a 0,75.08 ti sentivo sempre bene, non c'è niente di differenza. Sì, in AM non si nota, Daniele, eia, ascolta, vabbè. E per curiosità potresti fare, sempre se non ti secca, la prova dal 60 all'80 e sentire a orecchiometro le differenze, così per curiosità. Ehi Marco, guardami, segnati questo, 1, 2, 3, 4 e 5, lasciami 2 secondi che attacco l'altro, eh. Ehi. Guarda questo Marco, cosa dice? Sì, boh, fammi un passaggio lungo. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè, ora la cipolla. Daniele, se tu non me l'avessi detto che l'hai cambiato, io non mi sarei accorto di nulla. Sai perché? Perché io non ho l'orecchio allenato per le modulazioni. Però io francamente questa differenza abissale non la trovo. Anzi, non la trovo proprio. Boh, non lo so Marco, e ripeto, ancora è freddo. Non sta andando al regime giusto, diciamo. Adesso aspettiamo, dai. Lo faccio andare e vediamo un po'. Aspetta che attacco l'altro, aspetta. Guarda un po', Marco. 1, 2, 3, 4 e 5. Ibu, Daniele, a me sembra la stessa timbrica. Forse l'80 più bassi. L'impressione mia è quella, ma potrei sbagliarmi. Ma non era così malaccio, non era così malvagio. Capito, Daniele? Poi bisogna vedere se appunto è questione di che piace, non piace, o perché la capibilità c'è con tutte e due, comprensibilissimo, niente da dire. Bianco, un secondo Marco, arrivo subito. Ehi Daniele, devo staccare subito, vado a fare uno spuntino anche per mamma e poi mi corico, dai, sentiamo in altre occasioni. Ciao Daniele, ciao. Va bene Marco, lì dai, buon proseguo e dopo se coincide. Ciao, buona carica. Yeah. sei andato a prendere il kerosene per la stufa. Ci manca il caminetto. Ci manca la materia prima per il caminetto. E poi devi cadere la barca. È in ferro, il ferro non brucia, ci ho pensato lui. Sei in armadio, c'è ferro, ti avevi messo roba in legno. Vedi, ci devi, vai a cuccia, vai. Ti porti dei pensili. Allora. Ascolta, com'è questa modulazione? Non è che sia spinta. Non mi ricordo più le impostazioni, aspetta che aumento. Guarda adesso, com'è? Ah, 60. Ehi. Com'è sotto? Com'è il tattino sotto? Aspetta, mi sembra che sia in. Dovete aspettare a Claudio. Guarda adesso che cosa ho fatto. Aspetta. Adesso va meglio. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso va bene. Bene, avanti il break, ho registrato, buonasera. Che è Luca, l'ho perso? Rosso, ho sentito, Ivano Rosso. Ti copio pio, ho sentito direzione e poi ti ho perso. Aspetta Luca, mi sta, c'è una bassa. Arrivi in basso, dove sei Rosso? Mi ascolti? Mi ascolti, sì? Stai tracciato un po' basso, però già arrivi. Sei BM, hai detto? Una bomba. Che è Lu? Che ha detto? Vabbè, una bomba. Che ha detto? Boh, non lo so. Va bueno, così esce meglio comunque Lu. Mi ha migliorato la giornata alla notte. Azzardo. Che è azzardo? E adesso Lu, abbassato si è. Cosa vuoi? Drogato! E allora? Vabbè, tu, ma tu lo senti bene a Rosso? Cazzo, te la merda va fortissimo. Sembra qui dietro. Minchia, guarda che tu sei in alto. No, io sono stato un po' bassino. Ho arrivato anche lo Smith, adesso è a posto. Mi sono messo stamattina, o ieri, forse non mi ricordo, forse ieri. Ho arrivato lo Smith del 2009. Vabbè, tu, e allora? Sto bene, tu? Io a casa, mi da mamma. Sono a casa da mamma. Niente, quando vuoi passare a prendere giù la roba, adesso già sono qua, Tanto non devo fare un nulla. Anche sabato, se ce la fai, vedi te. E se no vedi camomilla. Bene, con chi sei? Con Daniello. Guarda se lo ascolta, Daniele, ma penso di sì. Sta usando 60, vediamo un po' come la copi, vai Daniele. Buonasera, che è Antonio, buonasera. Guarda adesso com'è. 1, 2, 3, 4 e 5, ha cambiato lui. Sì, Mari vorrà aperta la radio. Ma tu cosa ne dici? Ciao Daniele. No, io lo sento bene. Normale. Modulazione normale. E adesso 1, 2, 3, 4 e 5. No, non è cambiato niente. L'ho messo su 50, adesso vediamo. Perché non ricordo più com'era. L'ho messo su 50. Ma cosa stai usando? Aspetta, tu. Lui vuole fare la regolazione dell'MC60. Come vanno messi i tastini sotto? In. Allora, in e poi? Perché non ce ne sono altri tastini? Tu me l'hai messo la mia in? Aspetta che se lo riguardo, un momento più. Allora. Guarda, così è su in, 1, 2, 3, 4 e 5. Così già va meglio. Però non lo sta spingendo. Forse vorrà per tagliare le cibo la radio. E poi sopra l'impedenza cos'è, 50 o 500? Sai che 500? Così è, Antu. Antu. Dimmi tu. Ho detto l'impedenza 500 o 50? No, io la uso a 50, poi non lo so. Ah, ok. 50, Daniele. E allora era giusto. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè. Già va bene, dai, ma l'uovo te l'hai comprato, ho usato. No, ho usato, è lui. Ah? Cosa tu? Che radio stai utilizzando, si può dire? Troppo volete sapere adesso. Vabbè. Dacci un indizio. Sappiamo la marca, dacci un indizio. La marca dice tutto. La marca è una cosa, ma ne abbiamo fatto il mito di modelli. No, c'è WhatsApp, quanto l'ho appresso. Lui non lo so, sì. Ah, ok. Allora, è freddo c'è stasera, Ma dove c'è la monte? Sì, stanno la radio un amico. Una di malattia. Una di quelle incantate nella Francia. Ah, andava. che palacchi, che palanchi lo stai usando? Quello che ho io? Sì. Quello che ti ho mandato la foto l'altro giorno. Ah, è basso però, non è forte. Perché sto usando il microfono. Sto usando il microfono originale, lui. E poi sei distante, prova adesso. Vedi un po', adesso mi avvicino, guarda, 1, 2, 3, 4, 5 centimetri al massimo. C'è anche l'eco, guarda l'eco. Ultima l'eco. Sì, va bene, è più alta adesso, forse magari è troppo distante dal microfono. Già va bene. Bene. Sì, conferma. Magari vorrà aperta questa, non lo so, questa è tutto originale ancora. Vabbè, se è originale allora sì. Cava, questa è del 1850, Cos'è? 14, 43, 44, 68, cos'è? 14. Ah, no, è anche così tanto vecchio. È ancora minorenne. Quindi non sono mai diventati maggiorenni, neanche con tutti quanti gli altri accessori della linea. Oi, vabbè ragazzi, dai, io vi saluto e sto andando a fare un po' di commissione. Ci ascoltiamo più tardi se coincide, dai. Sì, ok, Daniel, a dopo. Buona passeggiata. Cava. Ciao, Lucariello. Sì, a dopo, Daniel, dai. Anche tra un po' esco. Devo fare una cosettina pure io. Tu, allora, a Rubre così, in cantina. No, non ce n'è preso qua, è dentro l'appartamento praticamente, però sono in cantina. Ah, è vero che avevi fatto la scala, è vero. Va bene. Cazzo, non sei lunghesino, Che cosa di palle, ci vuole più aprirlo che a sistemarlo. Fabio, molte volte magari ci metti più ad aprire, cioè sono televisore, bucare tutti i video, tutto quanto, che è ripararlo, veramente. Ma riparlo ci metti 2 secondi, se uno cosa c'ha, va. Erano con le barre di quelli cassati nella macchina, che fai con il frontale lui su scrive. E di che macchina è? Una Opel, no, di una Ford. Di quelle nuove, cos'è? Ford Express, cos'è? Ford. Quelle. Express mi pare, che si diciamo? Ah boh, cosa c'ha questo coso? Non accende? Non accende più. C'ha il fusibile della macchina? No, è col coso, la corrente c'è, è alimentato la parte e non accende lo stesso. Ah boh, non c'ha il fusibile dello stereo in sé? No, non ne ha, nel senso che appartiene, è cablato con la macchina, quindi ce l'ha nel quadro così, ma non è due, che il resto... gli accessori che sono sotto il fusibile non funzionano, e lui comunque adesso qua sul banco alimentato, sul contatto, ma devi uscire il gabbo, vedi te, ma questa macchina perché non è in garanzia? No, non è più in garanzia, quella radio non è una cosa che entra nelle garanzie, ma non che non si programma, non succede questo, perché quella macchina l'ha presa usata, quindi non penso che sia in garanzia. Ah, ho capito. Costicchiano quelle altre radio? Dai, non è che costicchiano, te ne 150 euro te la compareggi una, però c'è il discorso che appena comprato la macchina, sono più zero. Sì, ma nel mondo 150 euro ma non lo stereo. Se non sei grato alla Francia, se ti compareggi chi sono dei cinesi, 25 euro ce lo stacchi dentro. Si può fare anche così. Vedi tu, dai un'orata, con un'occhiata, un'orata, vedi cosa c'ha, ma trovi il danno. Sai che purtroppo è un casino, non è semplice. Prima volta avevo riparato uno, proprio c'era, si vedeva il finale buccato. Infatti ero riuscito a individuare la sigla, l'avevo cambiato e aveva ripreso a funzionare. Quando il finale si bucca vuol dire che hanno perdito il cambio degli altoparlanti, oppure ce n'è stato qualcuno che si è collegato a un mazzo. Sicuramente. Vabbè, comunque l'avevo sistemato, ma ti parlo di tantissimi anni fa, non è adesso. Poi cos'è la bambola che ha... mi pongo a contatto la radio. Che no. No, vabbè, già lo sai che io... Thank you. una cosa, tu vuoi il televisore famoso, ma vuoi il Twitch, no? Sto lì più a perdere tempo, perché tempo ho perso, capito? No? Già, le mani dei viti, già, quello lì è tempo, poi in più controllare la scheda, comunque niente, ho cambiato il condensatore, quello il più grande che c'è, quello 450 100 mi pare. 450, no, 400, 100 microfarad, vabbè, cambiato quello, perché sennò adesso un po' bombato, vabbè, confronto all'altro che era bello piatto. E niente, no, accendevo la spia e non partiva. Ho sostituito il cavo della alimentazione, ha acceso il televisore. Oh, strano, ma meno male acceso. Che non spegneva. Ma ho attaccato la spina, l'ho riattaccata e ha acceso, si vedeva proprio lo schermo, bene. L'ho spento, l'ho riacceso e non ho acceso più. Rimaneva sempre con la spia rossa. Vabbè, quindi sono misteri, comunque non c'entra niente. Il condensatore è quello dei 300 volt, e il condensatore sul primario, quindi se la spia rossa è accesa lui sta funzionando, quindi potete anche non cambiarlo a prescindere. Vabbè, comunque, solo visto che era un po'... non lo vedevo, siccome la mamma la stessa cosa gli faceva, la spia rossa non partiva, questo televisore, ho cambiato il condensatore, quello il più grosso che c'è, e il televisore sta ancora funzionando. Beh, ma raramente, perché comunque quel condensatore è sul primario, condensatore che c'è dopo il ponte di diodi, quindi in ogni caso se si accende la spia che è alimentata a 5 volte, figurati se il condensatore non sta funzionando. Vabbè, comunque l'acceso anche il televisore, chi sia il ricevitore, non lo so, nel telecomando, ma no, ma la cosa è stata accendeva. Poi, ma lo sai a me cosa mi è successo? Un Dyer 39 pollici che me l'ha praticamente me l'hanno regalato, come faccio di un'occhiata, ma vedo che niente, questo qui accendeva e rimaneva la spina rossa con il cibo. Però ogni tanto partiva, ogni tanto accade il ho detto vabbè dai, e ce l'avevo sempre a casa, sempre piazza di campagna, bastava attaccare la spina, poi si vedeva il condensatore, non lo potevo attaccare, una volta che era acceso non si spegneva. L'altro giorno mi sono detto vabbè dai, adesso mi sono fatto il bagno, con questa classica, la fine lo apro, cambio due condensatori, funzionava, ha funzionato benissimo due giorni, il terzo giorno si è fatto tutto quanto a righe nello schermo. Dice, ero amato. No, niente, anche a me non si è fatto tutta a righe nello schermo. Capito, come se si fosse danneggiato il pannello. Che tu sei l'esperto di queste cose, grazie a Dio. Dare anche una risposta da solo, se non lo sai, chi lo può sapere? Uno più superiore di te. Tu, i pannelli dei TV si rovinano, lo sai no perché si rovinano? Perché si scalda la flat sopra dove è collegato il pannello, dove c'è collegata la flat grande, no? Dritto su c'è quella flat stretta che collega il flat. Si rovinano lì, non ha niente a che vedere, oppure una eccessiva tensione, ma l'attenzione l'ho comprato, così, è stato un caso. E uno te l'ho detto, stamattina l'ho aperto, giusto così, no, io l'avevo controllato, mi ricordavo dei LED erano perfetti, comunque tu mi hai detto che potrebbero essere i LED che ballavano il quadro, e niente, no, i LED non c'erano niente, l'ho acceso, Antu, nulla, i LED rimangono belli, bianchi, è il quadro che balla se c'è il pannello danneggiato, infatti c'ha due chiatte adesso, forse mai l'ho chiuso male, vabbè, comunque c'è danneggiato, solito l'ho chiuso male, l'ha fatta chi mi ha messo quello sulle balle, l'ho messo lì, è peccato, è uno smart pure. Anche quello che stavo riparando, sicuramente era danneggiato da prima, magari si sono fatte tutte delle righe strette, dopo un paio di giorni. Ricordarsi pure che, come ho cambiato il condensatore, che si è risollevata la tensione, si è risollevata da qualche parte, su e gli ha capito. Ha surriscaldato il flat, no, gli ha danneggiato tutta la malata, ma vabbè, quello che fa. Poi ne ho uno qua, lo stesso, questo l'avevo preso a mio cugino, lì alla torbara, ma se no con uno nuovo, accendeva e non si sentiva. Caso strano, c'avevo anche i LED di ricambio, avevo un altro televisore, li avevo riparato, si è spento dopo due giorni, alla fine si è arreso, va restituisco i soldi, danno a me, e infatti poi mi sono venuto a prepararmi questo qua. C'è una piccola riga, ma non si nota più di tanto in alto, funzionava bene, insomma, anche questo qua smart, però non è di ultima generazione. Perché l'antenna tu? Perché adesso con il nuovo passaggio iniziamo a passare più alcuni canali negli applicatori. Sono sicuramente da rivedere un po' tutto. Ricordi come tanto tempo fa, quando siamo passati sul digitale terrestre, che molti siamo dovuti. Ti ricordi che avevamo fatto un sacco di antenne assieme? Ah sì sì. Cazzo, ma io, vabbè, io non ho pensato alla vicina di casa, l'ho comprata da poco, penso che quella vada bene. Sì, però ripeto, più che altro sono gli applicatori incriminati. Qui dipende da cosa uno può fare, se uno è onesto ti dà l'applicatore di ultima generazione, se uno è disonesto ti dà chi ci fa. Ma vabbè, ci chiede al limite. Scusa, quanto costa? Quello che vendi adesso costano 10 euro, 15 euro. Dammi quello di ultima generazione che costa 20 euro, non è il problema, ma dammelo, però no, dammi su, perché se no te lo riporto, se tu mi garantisci che va bene, ok, però se mi dai questa cosa non va bene, te lo do, dammi un prezzo. No, vabbè, una volta che uscirà e non ce ne saranno più in giro, il problema è adesso, magari adesso è tra 6 mesi di punti. E comunque, ma la paura, l'altro televisore è lo stesso. Ma prima lo volevamo riparare. E beh, ci ha deciso lui, Toto. Quella senza piede, senza piede questo televisore, un Sava. E l'avevo sistemato per darla a mamma. Dopo mi legge sempre, dopo 10 giorni mi si è spento. E stavo provando per adattargli altri led, nulla, poi lo passavo a parte, e tu non mi arrendo. Sei lì parcheggiato di ultima generazione, va bene per il nuovo digitale, è lì parcheggiato, quando ne staccano questo qua di questi vecchi uso quello. Beh così è sempre fatto così, questa di che ne aveva sono fatte tanti di quelle barre lette in campagna che ho visto l'altro giorno, ci sono perché ho comprato un po' qua giù in cantina di computer che sono un po' più. Ma lo sai che è un 57 a disco. Lettori di Woody non sono tanto una gran parte. Perché tanto raccimoli. Tu conta che io mettevo da parte i piedi dei televisori. Quelli Samsung, quelli grandi, sai, cazzo, costicchiano quei piedi lì, perché molte volte noi arriviamo al televisore e mancava il piede, allora li avevo messi da parte, poi alla fine un sabato mi sono detto le balle, ma stanno giocando una ventina di questi piedi. Ah, ma non stai dicendo, io ho buttato roba dei 50-60 anni fa, perché io li tenevo da parte, perché non penso che quella mia là, mi dava qualcosa, e cioè mi ha rimugato un piedistallo, lo so. Infatti. Vabbè, comunque niente, dai, per il momento ce l'ho, cioè sono comprato un nuovo, si è preso un LG, cazzo costicchia, 200 euro l'ha pagato, 32 pollici. Ma se prendo un LG, le LG li paghi, io ho preso uno nuovo che è un Samsung che va bene per Netflix, e l'ho pagato, per pagare 80-90 euro, prendo un'altra marca, però era abilitato, diciamo, i canali. Ma questo qua è questo già messo anche Netflix, cioè. C'è anche questo qua, questo che non piccia. Adesso vediamo, c'è stato qua il pannello, quello magari si può comunque utilizzare, anche vero, anche se non c'ha. Si può usare come. Non so, non buttarlo un peccato, magari è nuovo come. Si cambia il pannello se si trova. Oppure sto pensando che sia con la schedina, se non ricordo il nome, come si chiama. Perché a me è successo di un Samsung che il pannello mallava, ma no, infatti non è il LED, proprio lì non è a LED televisore, è a lampada. Ho cambiato il pannello, sono riuscito a procurarlo ed è a posto. Ma si è rotto, quel pannello era danneggiato, anche lui c'ha delle righe sotto, sotto nel fondo del foto si vede. E quando balla lo schermo si vedono queste righe. Non lo preoccupare, se non tu. Sì. Sì, sono andato in una padua a lì, sono andato all'autoparco, io pensavo che andasse la lamiera nel ferro, no? Sai, una lamiera o plastica, no, nulla, l'ha fatti pulire, tutti dalla palla meccanica. Ma e allora, sì, nella benda, nel Laticom, non mi veniva il nome, sì, è Laticom, e vabbè, ma sono lì a, insomma, aspetta, ci studi assolutamente, no, se riesco, io recupero lenti da 32, ne ho da 40, da 42 mi pare, 43 pollici, non mi ricordo, cioè ne ho striscia lenti, e poi ne ho un'altra ancora, Antonio, da Kai, 40 pollici lo stesso, che mi è uscito questa riga, funziona quello, quello è uno smart, quello è del 2000, del 2017, no, 2017-2018, ed è anche di ultima generazione. Ma cosa sono le righe? O cambio pure che cambia la seconda, no? Niente, il pannello. No, lì si vede che, non lo so, io non l'ho danneggiato comunque sia, ma in mezzo staccata la flat. Oppure semplicemente il play speciale, scalda, non si combinano e diciamo non pure più bene. Sì, vabbè, già in Kiwi. Poi l'altro quello da 50, 55 l'ho fatto giù in garage. Peccato, lui è nuovo a toccare. Anche quello della Kai, nuovo, cioè vuol dire nuovo, peccato. Sempre quello lì, la spia rimane fissa, uno non parte. La scheda non c'è nessun danno, niente, zero. È proprio la scheda è fiammante. Nulla, l'ho controllata o magari una saldatura a freddo, nulla, c'è 2 anni di vita quel televisore. Vabbè, a parte un problema c'è anche mia madre, però mi hanno detto, siccome stavo controllando su internet, che sono riuscito a trovarla, perché ce ne sono anche simili, però si possono adattare. Questo tipo mi ha detto che per questa scheda poi bisogna tipo mettere un codice per farlo partire, buona cosa mi sarà, così mi ha detto più o meno. Però questo tipo non si è fatto più sentire, ma prima di dire in culo. Magari ti ha detto che mi ha detto che se ero un tecnico se lo sapevo fare. Cosa c'è? Io ho detto che mi arrangio ho detto che secondo me la scheda d'alimentazione c'ha qualche problema, però mi ha detto che bisogna mettere non so cosa, E bisogna aggiornare il firmware. E cosa che bisogna fare? Non l'ho mai fatto. E quello lo puoi aggiornare solo l'assistenza, perché solo l'assistenza gli dà il programma, non è che tu non lo infatti è scaldo in chili. Se mi capita magari uno uguale, ma si spacca il pannello ce l'abbiamo già pronto, no? È nuovo, è un peccato, perché se riuscivo a sistemare non l'avrei tenuto io. Ma l'avrei tenuto io, quello è smart, lo stesso 4K. Facciamo questi rampi, finché funzionano, lo so, c'è questo decoder in mezzo alle balle, ma chi se ne frega, e l'ho fatto anche questi qua lo stesso, no, allora questo qua, allora se questo qua metto 200, 170, no, questo qua no, questo neanche, ma con 100 fa con questo. No, quei lì lo stesso, però che ancora vanno. Chissà con quelle ce la pigliano in culo. Ma infatti, mamma già è a posto, c'è la di ultima generazione, io lo stesso. Già mi basta 32, poi se è più grande già è più carino, là. Quando ci vai una partita o un film che ti interessa, qualcosa così. Vabbè ce l'avevo, mi ce l'avevo Panasonic che era un 42. Poi un Samsung 40, li ho fatti fuori quelli. E subito me la giù in tutti, sono arrivati. Beh, io c'ho ancora quello al plasma, ma non è riuscito. Forse 40. Ma tanto lo vendi al volo. Tu metti lo mi sui gruppi, centro lo vendi al volo. Tu dici? La giovenduria io, tu dici. Lo stesso, nuovo, mio, avevo cambiato la scheda due televisore, lo paga da 80 euro mi pare, l'ho venduto 150, e penso che sta ancora funzionando, poi penso, sicuramente mi chiamerà la tipa che mi dirà che non vede più i canali, e beh, vedi te. Beh, tu vai lì, ti fai vedere i canali e il resto. No, assolutamente, i canali, una volta che sta, lo stacca non funziona più quello. Dovrà mettere un record esterno. Vabbè, comunque le porte HDMI ce li ha quella TV. Niente, anche non è. Io non so quante ne abbiamo fatte. Quindi il coder... piccoli piccoli, io invece all'interno collegati direttamente il sensore pulellino a fianco al sensore del telecomando originale e neanche si vedeva. Che è tutto casino. Ma dentro, vabbè, questo qua è possibile, questo qua è perché è piatto, non ce la fai a metterlo dentro tu. Oh, qua, scommessa, questo lo sto usando adesso. Sì, siccome ho detto adesso, c'è un picchio adesso. Tanto è piatto, il tappo praticamente va a coprire i cosi, non ci sta niente dentro, manco un foglio di quaderno ci sta. Allora lo metti a fianco dietro e gli colleghi il sensore all'interno, capito? E glielo puoi agganciare magari dietro con due fascette, certo, tanto non si vede niente, il sensore mai glielo metti come stai dicendo tu. Così, Perché il sensore non ce l'ha incorporato, tu come fai? Non è con un filo. Sì, il sensore è incorporato, infatti, i fili lo porti fuori e lo metti a fianco al sensore del televisore, no? In modo che lo puoi comandare, se non comando. Chi è tu, Lucasino? Come cazzo fai? Come soffrire, mi fa. Ehi, vabbè. Ah, ma anche se lo metti sotto non si vede. Me lo metti lì sotto a voglia, Ma cosa c'hanno, la scarpe o la HDMI? No, la HDMI. Ma ci sono anche scarpe però, Anto? Sì, ci sono anche scarpe, ci sono anche bugie. Ah, ecco. Non lo so, ho visto infatti le scarpe. Dice, se non c'hai HDMI sei buttito. Ah, c'è anche la scarpe. E chissà anche i televisori da Nianfad, quelli è tubo cattolico, ci sono anche una ciappa in giro. E pensare che quelli qua stricchiavano i televisori. Ma ce n'è uno vicino a casa anche buttato. Chissà poi cosa faranno Antu. Poi faranno solo un pannello leggero e te lo fanno pagare un patrimonio. Dove ci sei uno stato a bagno 80 lì da buttare? Se ne sono segnato. Io ho trovato un pacco di rudate. Lo so, ma io sono andato, ma non quando mai. Quanto ti devi fare barbecue? Ehi, si è bucato il mio, cazzo, grandissimo. Io ho visto un video, questo tipo, cazzo, micidiale, ha fatto questo coso, la fine del mondo. La fine del mondo, bravo, Fate il chiudi, va, bello. Bello, veramente bello se l'ha fatto. E sai che di cinese cosa che ha usato? Tagliato bene, fatto verniciato, mostro proprio. Bravo, veramente. E lui che ha trovato qua, non li trovi buttati. Non me lo chiedo, qualche randa te lo lascia lì buttato vicino al cassonetto. Io prima ce l'avevo bello, l'avevo fatto bene con le cerniere, si apriva il cinghiale, poi si è bucato, allora l'ho attaccato le cerniere e con il coperchio l'ho usato come fondo, allora si è facendo pure un fondo e si era praticato. Vabbè, domani passa tu, che è mamato, aspetta, vediamo un po' più va, E domani vai, passa, questi ho quella roba là. Ehi tu, io lo sai però che sicuramente sto freddo. Vabbè, Anto, aspetta a che ora? Vabbè, facciamo dopo domani, dai che sono. Tanti giorni. altro, vabbè, così ti prendeva con le tastiere, due computer, il telefono, e qualcuno, boh, ce ne sono tre, vedi un po', si dice adattatele, cioè adattatele, solamente sono quelle, ma è una di quelle, non so se funziona, non mi ricordo, io avevo smontato, le avevo conservate. Casino, dai, devo fare un altro po' di pulizia, altro che, via. Sai che c'è la moto, lo sgabuzzo, non ci sta niente, se no avrebbe assunto lì, sarebbe una paduta in kiwi, non mi avrebbe dato fastidio, ecco, c'è qua a casa, da tenerci una padumba comunque. Tu pensi che recuperava anche le schede delle lavatrici, facevo una lavatrice uguale, se no che si bruciava, le recuperavo, siccome abbiamo comprato la nuova lavatrice, lui si dà giù una palla. Ehi, se c'è tempo per poi ci ho buttato lo stereo, quello non è a piano, è un unico piano, di quelli col mobiletto, è nel cazzo l'autoparco, tu mi sono guardato e funziona, ma era pazzico, e ce l'ho buttato, e mi sono preso quello che avevo fatto a mamma, questo è un iPad, zoccami, c'è un po' di zocca tu, e mi sono messo un altro mobiletto, e nel cazzo l'ho messo sopra. E ormai anche qui sto qua e c'è quel CD, però non so che problema abbia, non funziona il CD. Sicuramente avrà un problema, se non funziona non gira, non ruota. No, non guida proprio. Ma non apre? Ah, mi sa che apre, gira, però non lo prende il CD. Veramente? Anzu, un casino smonta con lo stereo, no, guarda, non ho più pazienza, non più come prima, via, lascia perdere. A parte quello, no, non ci dubbia, no. Poi stai lì, magari, no, finito, prima la cima mi messi là, non fa, già si rimane così, ma accendo ogni tanto la radio, finché va, però ti posso dire che zocca al frigo, un bel. Quelle bianche? No, bianche, nere, tastiere esterne, così come interfisse. Ma no, USB no? Tutte USB erano. C'erano USB, c'erano PS2, tutti la fanno, c'è un rumore e poi non è dubbio. Io me la volevo comprare quella che è illuminata, tanto bella, come sta sul brico, una cazzata goccia. Così anche con il portatile, ma sei troppo lontano te la metti sopra, no? Io c'ho il portatile, e poi non stai lì a girarti e fare, te la poni in alto, ma è sul letto e scrivi la tastiera, bella, ce l'ho, vabbè, volendo ce l'ho, però non è illuminata, però è carina quella illuminata, di rosso, verde. Ah, ti stai dicendo quella piccolina. Oh, grande! C'è freschetto però, eh. Io ho fatto la doccia che è andata a finire, ma mancata l'acqua, stamattina stavo entrando, dovevo uscire, cazzo ne va l'acqua, e dice no, cazzo esci, allora me l'ho fatta poco fa, mi sono cambiato, vabbè tra un po' esco, che sono 13:30, tra un po' esco, vado da Mirko, un attimino, faccio un sacco, avrei qualcosa. Ah, riaperto Anna, beh, come va? Piano piano. La gente ha paura tu. La gente ha paura. Beh, non fa. Guarda, voglio mangiare due pizzette di fuzzi, che guarda, ma le coppe che ce l'ho due pizzette stanotte. Come mai non sei dalla tua fidanzata oggi? Perché sono a casa. Ti bella uscita, Diana. No, sono presi io a livello uscita. No, sono buone le pizzette del signor Giovanni, e quando c'era lui erano molto più buone. Ma... E si conferma, più saporite, è vero. Più saporite. E vabbè. 1,70 costa. Alla fine come se stai mangiando una margherita, me ne prendo due, ce ne ho tre, e poi ingrassano, vabbè. Ehi, lo sai cos'è che... Vabbè, loro già le fanno più piccole. Gli altri ne fanno 12 o 13, potrei tagliare il 30. Beh, certo. Sì, e vabbè, anche il cocco gliele fa buono lo stesso, non so se l'hai mai mangiato da cocco. Sì, lo so, ma cocco per essere alle M5, appena te l'ha vista. E c'è anche il mio rosello. Sì, e chi ci è andato? Io che l'ho fatto. fatto il piano zero, sono almeno 30 anni. Ah, vabbè. Cosa ti volevo dire? E se avvedi, se la partita se ne è farata del tuo tablet, adesso lo accendo, vai via. Sicuramente sì, è importante, perché il piano zero. Ma l'avevo messo poi per ricaricare nulla? No, come quello dei telefonini è rimasto rotto perché ci manca la saldatura. No, niente, avevo sistemato bene la saldatura dell'altro spinotto rotondo. Ah, ecco, quello carica. Sì, già accende, smart pad 10.1 S2. Sì, con quello carica, con quello che ho io sì, anzi, sì, con quello del caricabatterie che ho io sì. Quello spinotto a tondo lungo, quello piccolo. Sì, poi nel caso che magari tu se non ce l'hai io te lo do, così magari se riesci a, non lo so, come si dice, a trovarlo uguale, perché io lo vedi, per questi lavori qua lo tengo. Tanto tra un po' che quello andrà a finire nella mondetta, vedi, perché sono, perfetto, ancora a carico 100%. Sicuramente si è scaricato, forse avevo lasciato acceso, lo sai. Può darsi. Oppure li possiamo mettere dentro, no, di quelle schedine piccole piccole con l'attacco USB. Ma io ce l'ho Antu. Se vuoi te la do, ti arrangi, non lo so. Ma già che sta caricando Antu. Sono un caricabatterie di quelli, di questo che c'ho io, uguale. Te lo faccio vedere e te lo procuri magari. Capito? Io per il momento lo tengo, magari mi esce qualche lavoretto qui. Come è successo a te, te l'ho caricato. No, carica batteria 5 volt ne ho, ne dovrei avere tanti a 5 volt di quelli, però è lo spinottino il problema, quello già lo uso da Wish, però ne ho di quelle spinine, le avevo tirate da Wish o da Lier, quelle piccole con l'attacco micro USB, che hanno uscita, che sono praticamente lunghia. E ancora la pellicola vuoi sto tablet sopra? Sì, ma c'ho l'altro, quello lì. Ho l'altro, quello di furia di entrarci lo spinotto quando poi c'ero, sono a furia di giocare, la furia dopo deve essere, sono stato il corto, infatti quest'altro non c'è di più, ci sta dando una bagazza, non c'è grasso, ma non c'è più, l'ho tenuto perché c'è. Questo qua è tutto quanto imbattulato, magari lì il copribatteria è nuovo, se è uguale, questo è tutto imbattulato, dico. No, è preciso. È tutto imbattulato, dico. Sì, non si è mai caduto mezzo volta intero, non si è mai rotto. C'ha quest'angolo qua che è tutto schiacciato, qua lo stesso. Io l'ho dovuto aprire con le unghie, la prima volta mi sono rotte le unghie, perché io te le tengo per questi lavori qua. E l'ho dovuto aprire con coltello piano piano, coltello sottile. Adesso riesco ad aprire di nuovo con le unghie perché mi sono di nuovo ricresciute. Io volte a volte ho detto tante cose, cazzo, un casino. Senso quando me l'hai detto. A proposito, tanto, ma non è che tu c'hai per caso, adesso come me ne sono ricordato, allora aspetta, io ho questo, no, di gatta patata canirlo di un frizzo, vabbè, era di mio cognato questo computer, l'ho un po' sistemato, però si è rotto il connettore dove tu inserisci il microfono, no, non il microfono, la cuffia, proprio la tracciata della scheda madre, infatti si è tutto rotto, e questo qua è un Acer Extensa, ma ti lo si chiama 5635Z. Se tu c'hai magari una scheda vecchia, ma lo dissaldo io. E io sicuramente ce l'ho una scheda vecchia, perché quello Acer è uguale sicuramente alla Fire 5110. Non lo so, Anto, non lo so, questo non te lo so dire. No, peccato, io ho messo Windows 10. Ho cambiato la tastiera perché era rotta. E vai, quindi va, adesso accendo, no, non ce la fa. La batteria non dura più. Non va. E niente, non si sta. sistemato e a posto. Diciamo che ci voleva qualcosa, l'ho tutto pulito bene e non staccato quello vecchio, no? E dai fonti mi serve un altro nuovo fucile, lo salto. Allora mi ha rubato un po' di tempo per farlo. Mandami una foto del PC su WhatsApp. Io domani devo andare in campagna e guardo se ce n'è qualcuno che si assomiglia, perché se non è stessa non è normale, o per altre marche. Ho cercato quel l'ho infilato, mi ricordo, in qualche buco. Aspetta, vediamo, andate a tu. Mi ascolta, invece non sai cosa mi serve. Ho utilizzato per una TV HD, piccolina piccolina, e si è due al massimo. Cazzo, tu, ce l'avevo debuttati, vedi, piccolo, io l'ho dato, questo che mi hanno regalato Saba, l'ho dovuto adattare io, praticamente di quelli larghi, e dietro gli ho fatto dei buchi, e gli ho attaccato proprio dietro, avvitato con delle viti lunghe, e funziona, va bene. Pensavo che ero qualcuno piccolino, ma dopo forse glielo dovresti adattare. Ah, no, questo qui è, vabbè, sono anche normale, perché ha... un certo quadrato, non la mia, con due fori spettanti, praticamente utilizzando a un rettangolo con due fori, perché ne ho tanti con la faffettina metallica, non vanno bene, ne volevo fare in questo modo, però me lo devo ritagliare, fare questo. L'ho fatto un altro giorno scomperando qua, e lì mi c'è tutto per monitor. E poi io ne ho un altro stesso, me l'hanno dato, che lo usavano le cose all'esterno. Tipo strano, vabbè. Mi sono messo, E praticamente c'è la decoda incorporato. Allora, Rai 1, Rai 2, Rai 3 me li mette in fila, 1, 2, 3. E canale 5, Rete 4, canale 5, taglia 1 no? Quelli sono 7, 8, 7, 9, 80. Non riesco a metterli in, come si dice? E c'è scritto anche HD del televisore. E cosa vai a portare come paese la Germania? No, niente, Antu, mi dà praticamente... allora, 69 canali. Allora c'è un problema al connettore dell'antenna. Dici, no, se no non sarebbe visto niente altro. Lu, c'è un problema al connettore dell'antenna, fidati. È un po' vecchiotto il vostro televisore, c'è scritto HD, è un Majestic. Sì, però c'è un problema sicuramente. A meno che non sia proprio vecchio, ma vecchio di 20 anni. No, vecchio di 20 anni no, ora, avrà i suoi 7-8 anni.